536. Quagliette. Servitevi delle braccioline ripiene del numero 307, oppure fate l'involucro con vitella di latte e quando saranno ripiene fasciatele con una fettina sottilissima di lardone e legatele in croce col refe e infilatele nello spiede per cuocerle arrosto, ognuna fra due crostini, e con qualche foglia di salvia, ungetele con l'olio, salatele, bagnatele con qualche cucchiaiata di brodo e scioglietele quando le mandate in tavola. Anche col filetto di manzo a pezzetti, fasciato di lardone, con l'odore della salvia e fra due crostini, si ottiene un buonissimo arrosto.